Un'altra radio. Un'altra musica. Un cordiale buon momento a tutti dal vostro Brontolo. Sotto la mia voce è quella vecchia canaglia di Andrea Donau che sta suonando qui per noi a un'altra Radio Roma. Oggi ho pensato a bella roba per voi e quando dico roba la dico con 3B. La selezione musicale che ho preparato per voi nelle sue diverse forme parla del rock. Quindi ascoltatelo, indossatelo e fatemi sapere quale calza per voi. Iniziamo a bomba con del sano kraut rock. Questi sono i Mecchina con la loro TV channel. Sentite che roba. Bravi, bravi, bravi questi ragazzi, i Mattina. Ora per me è un po' complicato andare avanti, ma sempre bella roba con i Pioneer 10. Ditemi se non è bella roba. Tutta la musica, ma il rock non può mancare qui a un'altra Radio Roma, figuriamoci se può mancare il gothic rock. Night Gallery per voi, bella roba. You're this la selezione rock dell'Artra Radio Roma vi propone J, Jeremy J. Your light beam flying through the air and across your hair. We're swimming in a neon fountain, splashing the waves of pink colored rays. On a mountain range with love cigars, on an expressway. In questi giorni, sia a me che al mio amico DJ Cocot, scorre un pensiero ricorrente. Fare più vostra la nostra radio, un'altra Radio Roma. In che modo? Potreste, per esempio, spedirci dei vostri podcast. Ma per fare tutto ciò, tre cose per noi sono necessarie. La vostra voce, la qualità del suono che deve essere discreta, ma soprattutto che si fruisca di musica libera. Quindi abbiamo bisogno di una vostra track list per verificare le licenze. Pensateci, preparatelo e inviatecelo, che noi lo manderemo. Doing Yeah. Yes. La traccia appena ascoltata era di Mr. e Mrs. Brian, ora un'altra Radio Roma, The Damned, e a seguire Saskia von Kilsing. it's time to think of you. Wonderful stories for you. Sempre, sempre e poi sempre bella roba un'altra Radio Roma. Adesso Ton Rückert. We'll be right back. Dopo questo pezzo che ricorda i mitici anni 80 di Kustler Treu, ritorniamo al rock vero, con Leviathan. Ed ora un'altra Radio Roma si ammorbidisce con le sonorità, e si ammorbidisce grazie ai Food Will Win the War. That's just the way that it's been. All I wanted was to you. Every night just to gone now, and it's leaving to stay. Life is all that's left to shine today. I'm prepared now, let's not get carried away. left to shatter today. I'm prepared now, let's not get carried away. Chi di voi ricorda le sonorità dei mitici Pogues? Quel gruppettino che faceva musica un po' da festicciola, un po' del nord Europa, un po' irlandese, un po' scozzese, un po' inglese. I Special Moments me li ricordano molto. Voi che dite? My mother had a sister, her name was Auntie Kim. She had a boy called Eric, and I was mates with him. We used to play Red Rover, we'd knock ourselves all sore. When Red Rover was over, we'd knock ourselves some more. Hey, hey, take us away, we're signing up for the service today. Say, say, let us play, we need a bigger game. We are one in the same. We went to different public schools but always kept in touch. I beat his team in cricket, he still liked me very much. We used to play with action men, the army games we'd like. We'd beat the sodden commies and go riding on our bikes. Hey, hey, take us away, we're signing up for the service today. Say, say, let us play, we need a bigger game. We were one in the same. Eric, me and Derek together all the time. Eric, me and Eric till the day we died. Eric, me and Eric together all the time. Eric, me and Eric until the day he died. Non so da voi, ma qui a un'altra Radio Roma si continua a saltare su sti tavolacci di legno. Questo locale che puzza di fumo e con un bel boccale di birra in mano. Ballate, regà, ballate. À la maison, ma mère me disait pas question. Quand t'as pas fini tes leçons, tu ne sors pas que nom de nom. Et c'est là qu'arrivait le père. Allez, fiston, viens prendre l'air. On dira rien, mais ma ta mère et moi je ne savais plus quoi faire. Moi je veux qu'on m'explique pourquoi. Un coup le chef c'est elle puis toi. J'aimerais qu'on me dise une bonne fois. Mais qui c'est qui fait quoi? Maintenant je suis grand et au boulot. Mon patron me dit que je suis qu'un idiot. Tant que t'auras pas la solution, tu ne sors pas que les noms de nom. Et c'est là qu'arrive sa femme. Viens donc m'aider, je suis en panne. On dira rien, même à ta mère et moi je ne savais plus quoi faire. Moi je veux qu'on m'explique pourquoi. Un coup le chef s'appelle puis toi. J'aimerais qu'on me dise une bonne fois, mais qui c'est qui fait quoi? Maintenant j'avoue j'ai bien compris, quand elle m'appelle c'est toujours oui. Maintenant que j'ai la solution, je rentre, je sors, que non de non. À chaque fois qu'arrive une femme, je lui demande si elle est en panne. Surtout ne dites rien à ma mère, ça y est maintenant je sais quoi faire. J'ai plus besoin qu'on m'explique pourquoi. Un coup le chef c'est elle puis toi. J'ai plus besoin qu'on me dise une bonne fois. Mais qui c'est qui fait quoi? We'll be right back. il genere cambia, ma la lingua rimane pur sempre francese. E si continua pur sempre a ballare a un'altra Radio Roma. Plus rien, souffler le chaud et le froid, je fais mon choix. Souffler le froid et le chaud, je fais mon show. Bras zéro de la foule, je brille de mille feux. Cool, mais dans tes bras zéro, nib, nada, rien. Mais dans tes bras zéro, nib, nada, rien. Je m'éteins, jamais tête brûlée. Je m'éteins, ne pas brûler les étapes. Je m'éteins, ne pas faire feu de tout bois. Je m'éteins, et à ne jamais rougir. Je m'éteins, jamais de feu de flamme. Je m'éteins, ne pas brûler ces dernières cartouches. Je m'éteins, et puisque fumes-tu, alors je m'éteins. Jamais tête brûlée, je m'éteins, ne pas brûler les étapes. Je m'éteins, ne pas faire feu de tout bois. Je m'éteins, et à ne jamais rougir. Je m'éteins, jamais de feu de flamme. Je m'éteins, ne pas brûler ces dernières cartouches. Je m'éteins, et puisque fumes-tu. Sono stato costretto a passare due tracce senza interruzione. Non mi piace mai interrompere la musica, ma in questa circostanza mi vedo costretto di nuovo ad utilizzare la mia voce per presentare la signorina Copson con la sua musica dolcissima. Ed eccoci purtroppo giunti alla fine di questa programmazione, la programmazione di DJ Brontolo. Un'altra Radio Roma è costituita da diverse anime, ognuna con la propria testa, ma una cosa sicuramente ci accomuna, che la guerra è una puttana. Nel loro lavoro i Special Moments raccontano della guerra nelle Falkland, dove il signor Eric, alla fine del viaggio, racconta appunto che la guerra è una puttana. Quindi vi saluto con queste due tracce, una dei Special Moments intitolata appunto War is a Bitch. E andrò a concludere questo mio podcast con Gli Angels in America, Your Wings. Fate i bravi, ragazzi. Mi raccomando, fate sempre i bravini. Un abbraccio da DJ Bruntolo. War is a bitch. War is a bitch. When I first came to the Falklands, for fighting I had the itch. But when I found out who was losing, I was lost. War is a bitch. If you are morally inclined, war is a bitch. If you are seeking peace of mind, war is a bitch. I thought I had come with the purpose. I wanted to do what was right. When I came aware of our blindness, I lost sight. War is a bitch. When you are crawling on the ground, war is a bitch. When you are sacking little towns, war is a bitch. We sailed out here proud and determined. We thought that the enemy was bad. But we found out there was no real enemy. So fuck it, war is a bitch. If you love your fellow man, war is a bitch. To hell you will be damned, war is a bitch. Now Eric and I were good soldiers, always doing just what we were told. An explosion rang out in the heat of the battle, and Eric, my good friend, went cold. War is a bitch, because killing is a game. War is a bitch, when your best friend's life is claimed. War is a bitch. Thank you.